gentili ascoltatori e ascoltatrici, che l'Eterno, il nostro Dio, vi dia sempre la sua sapienza. Oggi tratteremo un argomento molto delicato, ma che i fatti di cronaca ci inducono a trattare. Il titolo è «Sei guidato dallo Spirito Santo o da uno spirito maligno?». La mia preghiera è che alla fine di questa prima trasmissione tu possa avere le idee più chiare. Non v'è dubbio che stiamo vivendo in un periodo particolare della storia, il tempo dello Spirito Santo. In tutto il mondo si stanno moltiplicando movimenti che danno risalto allo Spirito Santo come mai in passato. Il Papa stesso ha dichiarato nel 1998 come l'anno dello Spirito Santo. Che si dia risalto allo Spirito Santo è più che giusto, perché per molto tempo la Chiesa lo ha trascurato, al punto che uomini come Tozer lo hanno definito il grande dimenticato. Che lo Spirito Santo venga rivalutato non deve sorprendere il cristiano che legge attentamente le Scritture, perché la parola di Dio ha profetizzato che prima del ritorno di Cristo vi sarà, da parte delle persone religiose, un periodo di risveglio per le cose spirituali. Leggiamo quindi in proposito nella seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2. Ora, fratelli, circa l'avvenuto del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Paolo avverte che prima del ritorno di Cristo accadranno certi fatti. Innanzitutto verrà l'apostasia. Essa non è altro che l'abbandono della fede da parte di coloro che l'hanno professata. In pratica, negli ultimi tempi, coloro che saranno stati attirati verso il cristianesimo lo abbandoneranno, non tanto per diventare atei, ma per seguire dottrine e movimenti religiosi secondo le loro voglie. L'ammonimento di Paolo a Timoteo è più che mai attuale. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Il secondo segnale che precede il ritorno di Cristo sarà che l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o d'oggetto di culto, si siederà nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Questo è possibile solo se gli uomini religiosi saranno confusi, cercheranno un capo che riesca ad accontentare tutti, vi sarà un centro religioso a livello mondiale. Sorgerà allora l'avversario che proclamerà di essere Dio e al quale tutte le persone religiose faranno riferimento. Sembra incredibile che ciò avvenga. Sembra impossibile che l'umanità arrivi ad accettare che un uomo si proclami Dio. Ma tutto ciò può diventare possibile se quest'uomo si presenterà come il Messia. Il terzo segnale in campo religioso è il più ingannevole, perché l'avversario, l'uomo del peccato, l'anticristo, avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità. Prima del ritorno di Cristo vi sarà dunque un uomo che sedurrà il mondo nell'ambito della religiosità, facendo ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi. Se presunti guaritori hanno fatto delle presunte guarigioni e sono così venerati, cosa ne sarà di colui che farà effettivamente opere potenti? Ho sottolineato questi tre aspetti religiosi perché essi sono identici a quelli operati da Gesù. Il greco usa tre parole per significare miracolo e tutte e tre si trovano in Atti 2:22 nel discorso di Pietro e sono applicate a Gesù. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui, tra di voi come voi stessi ben sapete. È sorprendente trovarle anche in Prima Tessalonicesi, però riferite all'Empio, all'Anticristo, del quale è scritto che egli simmiotterà ciò che fece Gesù. Le persone religiose e desiderose di una vita condotta dallo Spirito Santo saranno attratte da lui e infine sedotte. C'è molta ignoranza su quel che riguardi la volontà di Dio, ma non ve n'è di meno per ciò che interessa l'opera di Satana. Sono rimasto sorpreso del constatare quanti siano le persone che non sanno che Satana possa compiere dei miracoli. Proprio per questo, senza saperlo, molte persone si rivolgono al maligno. Ho fatto queste riflessioni perché, per quanto possa sembrare strano, ad essere più esposto alla seduzione del maligno non è il credente tiepido o soddisfatto di sé, ma quello fervente, colui che arde per il regno di Dio. Dal momento che i tempi futuri saranno catalizzati dalla ricerca dello spirituale, e in questa ricerca Satana farà il suo gioco, colui che sta cercando le cose più preziose di Dio, una vita cristiana più ricca, condotta dallo Spirito Santo, deve guardarsi dalla seduzione di ciò che è spirituale. Non si deve pensare che sia facile distinguere il vero dal falso, perché a volte la linea di demarcazione non è così netta. L'errore è così abile nell'imitare la verità che continuamente i due sono scambiati l'uno con l'altro. Se l'errore fosse così evidente, nessuno di noi commetterebbe certi falli. Ma proprio perché il diavolo si traveste da angelo di luce e non di tenebre, mentre i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia e non di iniquità, dobbiamo esaminare e mettere in discussione le scelte anche nell'ambito della fede. cosa fare allora per riconoscere la situazione spirituale che ci sta davanti o verso la quale correrà tutto il mondo? Come riconoscere una nuova esperienza spirituale, una veduta nuova, una nuova pratica religiosa, lecita o illecita? Il cuore dell'uomo è come uno strumento musicale. Esso può essere suonato dallo Spirito Santo come da uno spirito maligno. Le emozioni religiose sono molto simili, sia che vengono dallo Spirito Santo che da uno spirito maligno. Ero presente alla testimonianza di un figlio di Dio che si era convertito dagli idoli a Cristo. Ma in tale occasione non tutti colsero l'inganno spirituale nel quale egli era caduto. Testimoniava che, quando pregava Maria, aveva la sensazione che la sua mano lo accarezzasse. Questa esperienza religiosa la può fare anche un pio cristiano per quanto riguarda Dio. Egli può sentire la presenza di Dio come altri sentono la presenza di demoni. Un credente che ricerchi ardentemente le sensazioni fisiche della presenza di Dio o altre esperienze simili può essere ingannato più di un altro dagli spiriti del male e possono essergli accordate molte esperienze che non sono altro che contraffazioni. Ancora una volta ci rendiamo conto che sia possibile fare esperienze religiose ingannatrici, perché l'errore e la verità viaggiano sulla stessa strada. Come comportarsi per non cadere preda di esperienze spirituali demoniache? Ci vorrebbero tanti studi per rispondere a una simile domanda, tesi a mettere l'enfasi sul fatto che l'esperienza religiosa debba essere sempre confermata dalla parola di Dio. Di conseguenza, ogni esperienza di fede, come per esempio la preghiera rivolta a Maria e ai Santi, sarà ritenuta proveniente dal maligno. Inoltre, in questi studi, si dovranno valutare i risultati di questa esperienza religiosa, se la persona è condotta ad allontanarsi da Dio, se non è portata ad abbandonare il peccato, se è tentata di separarsi dagli altri, se è stimolata nel suo orgoglio, allora ella deve rivedere il suo rapporto con Dio. Considerato che le risposte sono innumerevoli, ho pensato di presentare una sola soluzione per non essere sedotti dal maligno, che inglobi anche le altre. A mio avviso, l'errore principale che fanno certi figli di Dio, tesi a cercare con tanta accortezza una vita condotta dallo Spirito Santo, è avere una mente passiva. Se è vero che non vi è nulla di nuovo sotto il sole, credo che dobbiamo esaminare il comportamento dei primi cristiani con il desiderio di vivere una vita condotta intelligentemente e ripiena dallo Spirito Santo. Forse non l'abbiamo considerato, ma noi non siamo i primi a desiderare di vivere ripieni dello Spirito Santo. Anche i primi cristiani hanno avuto tale aspirazione, ma senza un certo discernimento, per cui hanno fallito. I loro errori devono servirci di esempio e metterci in guardia. I cristiani di Colosse, per esempio, erano stati ingannati da persone che si distinguevano per il loro scettismo e che professavano una conoscenza trascendente delle cose divine. Essi avevano introdotto il culto degli angeli, riducendo così la supremazia di Cristo. La sottile seduzione del misticismo fece le sue vittime. I cristiani della Galazia, poi, erano attirati verso un altro Vangelo. In un primo momento vissero una vita spirituale intensa, condotta dallo Spirito Santo, ma poi erano scivolati nel vivere per la carne. L'Apostolo Paolo ha dovuto ricordargli che se viviamo per lo Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Per Paolo non si può essere guidati dallo Spirito e commettere fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ire, le contese, le divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose. che, condotto dallo Spirito, realizza invece amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà e mansuetudine e autocontrollo. Chi non usi il proprio discernimento e non rifletta sui risultati della sua vita cristiana non vive il cristianesimo intelligentemente. Ma molto probabilmente l'errore più eclatante fu commesso dai cristiani abitanti nella città di Corinto. I corinzi desideravano ardentemente, come poche altre chiese, di vivere per lo Spirito Santo e di realizzare i suoi doni. Sono stati i progenitori di ogni altra chiesa carismatica composta da credenti non giudei. Ma proprio in quella chiesa noi troviamo i più grossi peccati. Tutto questo a causa del loro desiderio di non vivere una vita cristiana strascicata. I cristiani avevano delle divisioni, ma anche in questo erano sempre alla ricerca della condotta dello Spirito Santo. Alcuni patteggiavano per Paolo, che era stato il loro papà spirituale, altri per Apollo, perché era molto più preparato nel parlare. Alcuni erano a favore di Pietro, forse perché era una delle colonne tra gli apostoli. Altri ancora, per non sbagliare, non patteggiavano per nessun uomo, ma solo per Cristo. Ma Paolo condanna tutti, perché non guarda tanto la motivazione della loro scelta, quanto piuttosto il risultato. Se la divisione di una chiesa è opera della carne, allora ogni divisione è da evitare, anche se vi si arrivasse per i motivi più spirituali. Sembra una contraddizione, eppure l'errore più grande i credenti di Corinto lo commettevano nel momento in cui essi desideravano particolarmente essere ripieni e guidati dallo Spirito Santo, cioè durante il culto e nella preghiera. Occorre leggere il discorso che fa Paolo a riguardo nel capitolo 14 della sua prima lettera. Desiderate ardentemente l'amore, non tralasciando però di ricercare i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Chi profetizza, invece, parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, perché la Chiesa ne riceva edificazione. Dunque, fratelli, se io venissi a voi parlando in altre lingue, che vi servirebbe se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione o qualche conoscenza o qualche profezia o qualche insegnamento? Perfino le cose inanimate, che danno suono come il flauto o la cetra, se non danno suoni distinti, come si riconoscerà ciò che si suona con il flauto o con la cetra? E se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Così anche voi, se con la lingua non proferite un discorso comprensibile, come si capirà quello che dite? Parlerete al vento. Ci sono nel mondo non so quante specie di linguaggi e nessun linguaggio è senza significato. Se quindi non comprendo il significato del linguaggio, sarò uno straniero per chi parla, e chi parla sarà uno straniero per me. Così anche voi, poiché siete desiderosi di capacità spirituali, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Perciò, chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare, poiché se prego in altra lingua prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa. Che dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza. Altrimenti, se tu benedici Dio soltanto con lo spirito, colui che occupa il posto come semplice uditore, come potrà dire Amen alla tua preghiera di ringraziamento, visto che non sa quello che tu dici? Quanto a te, certo, tu fai un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Io ringrazio Dio che parlo in altre lingue più di tutti voi, ma nella Chiesa preferisco dire 5 parole intelligibili per istruire anche gli altri che dirne 10.000 in altra lingua. Fratelli, non siate bambini quanto a ragionare, siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto a ragionare siate uomini compiuti. È scritto nella legge: parlerò a questo popolo per mezzo di persone che parlano altre lingue e per mezzo di labbra straniere, e neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Quindi le lingue servono di segno non per i credenti, ma per i non credenti. La profezia, invece, serve di segno non per i non credenti, ma per i credenti. Quando dunque tutta la Chiesa si riunisce, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli estranei o dei non credenti, non direte che siete pazzi? Ma se tutti profetizzano ed entra qualche non credente o qualche estraneo, egli è convinto da tutti e scrutato da tutti, i segreti del suo cuore sono svelati. E così, gettandosi giù con la faccia a terra, adorerà Dio proclamando che Dio è veramente fra voi. Paolo non era contrario al parlare in lingue, ma desiderava che ogni cosa fosse fatta per edificare la Chiesa. L'Apostolo non era contrario neppure alla preghiera, ma desiderava che fosse fatta in modo intelligente. Infatti disse: pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza. Quando la nostra intelligenza viene meno nel campo di Dio, lo spirito del male se ne impossessa e la usa come vuole. Vivere la vita cristiana senza l'ausilio dell'intelligenza significa esporre la nostra mente e di conseguenza tutta la nostra vita all'errore, il quale si presenterà sotto forma di spiritualità. Termino qui per oggi. A risentirci alla prossima trasmissione, nella quale concluderemo le nostre riflessioni. Che la pace di Cristo abiti nel vostro cuore. Gentili ascoltatori e ascoltatrici, vi do un caloroso saluto. Continuiamo oggi le riflessioni in merito a un solenne interrogativo. Sei guidato dallo Spirito Santo o da uno spirito maligno? Nella precedente trasmissione abbiamo considerato come i primi cristiani, benché desiderosi di compiere la volontà di Dio, facessero l'opposto. Essi pensavano che fosse spirituale agire abbandonandosi ad una condotta senza l'ausilio dell'intelligenza. Ma quando la nostra intelligenza viene meno nel campo di Dio, lo spirito del male se ne impossessa e la usa come vuole. Vivere la vita cristiana senza l'ausilio dell'intelligenza significa esporre la nostra mente e di conseguenza tutta la nostra vita all'errore, il quale si presenterà sotto forma di spiritualità. C'è chi d'abitudine apre la Bibbia a caso per trovarvi la volontà di Dio, non sapendo che, molto probabilmente, vi troverà la volontà del diavolo. C'è chi si butta nell'opera di Dio senza accortezza e discernimento. Egli troverà dolori e ne creerà anche gli altri che lo circondano. C'è chi lascia che la sua vita sia guidata dalle circostanze e costui finirà malamente. C'è chi lascia che siano i suoi sentimenti a decidere per lui. Egli si ritroverà con un matrimonio fallito e non andrà d'accordo con nessuno. C'è chi crede di essere sempre guidato dallo Spirito Santo. Per certo, questo diventerà un fanatico e antipatico. C'è chi incolpa il diavolo per ogni suo errore. Egli finirà per diventare un presuntuoso. C'è chi cita la Bibbia in ogni circostanza, pensando per questo di essere spirituale. Purtroppo, egli risulterà essere proprio il contrario. Si insegna spesso che dobbiamo rimettere ogni cosa nelle mani di Dio e lasciare che Egli operi per noi, che dobbiamo essere talmente abbandonati allo Spirito Santo che in noi da lasciare che Egli compie ogni cosa invece nostra, che dobbiamo lasciare che sia Dio a ispirarci e a muoverci. Vi è una grande verità in questo insegnamento, ma l'errore presente in questa affermazione è forse più potente della verità. Il Signore vuole che l'uomo voglia ciò che Egli stesso vuole, ma non desidera che l'uomo sia una creatura senza volontà. La differenza fra l'opera di Dio e quella di Satana sta nel fatto che Dio vuole che l'uomo abbia totale fiducia in Lui, usando, tuttavia, i talenti che Egli ha dato, mentre Satana pretende la completa cessazione della volontà e delle azioni. Dio chiede all'uomo di collaborare coscientemente. Satana obbliga l'uomo ad ubbidirgli passivamente. Alcuni figli di Dio sono soggetti agli spiriti maligni più di quanto non si pensi. Non dobbiamo cadere nell'errore pensando che i credenti che sono ingannati dagli spiriti del male siano corrotti, degenerati, che facciano ogni sorta di male. Al contrario, spesso questi sono persone fortemente consacrate, più mature spiritualmente della media dei credenti. Sono coloro che si impegnano ad ubbidire a Dio, costi quello che costi. Essi pensano che avere una motivazione pura li protegga dall'inganno. L'onestà non è una condizione sufficiente per non essere ingannati, mentre la conoscenza lo è. L'Apostolo Pietro ne è un esempio. Quando Gesù gli disse che egli doveva soffrire, turbato nei suoi sentimenti, Pietro esclamò: «Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai». La risposta di Gesù non si fece attendere. «Vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Pietro aveva un cuore ardente, un amore per Gesù senza limiti. Infatti egli disse: «Darò la mia vita per te». Ma non possedeva il giusto discernimento. Egli non aveva compreso le vie di Dio. Era addirittura il nemico di Gesù, il suo avversario. Satana aveva strumentalizzato l'affetto di Pietro perché questo inducesse Gesù a non morire in croce e salvare così l'umanità. Ciò che desiderava Pietro era, dunque, satanico. L'ignoranza è una piaga tragica tra i credenti, più di quello che non si creda. Per questo, il credente ha bisogno di conoscenza per distinguere l'opera di Dio da quella di Satana. Senza discernimento, i credenti si possono trovare a combattere contro Dio. Nel mondo vi sono due volontà, quella di Dio e quella di Satana. Dio chiede che il credente collabori con Lui, ponendo in azione il discernimento, la conoscenza e la volontà. Satana, invece, costringe le persone ad agire come macchine prive di ogni facoltà, di decisione e di pensiero. Se non siamo in grado di scoprire questo principio fondamentale, saremo ingannati e vivremo sotto l'oppressione di un potere esterno, diabolico, camuffato da volontà di Dio. Per questa ragione, chi teme Dio e sa di vivere in situazioni anomale, peccaminose, compromettenti, deve prendere con un atto di volontà, che gli può anche costare sofferenze e sacrificio, una posizione di rifiuto. A proposito, ho presente in modo particolare una ragazza credente che si era fidanzata con un non credente, intraprendendo con questo una relazione anche sessuale. Quando le feci presente che la sua relazione affettiva non era regolare davanti a Dio, ella ammise che era vero, ma mi rispose: «Io non lo lascio. Se Dio vorrà, mi lascerà Lui». Essa stava subendo una relazione dove il diavolo aveva la situazione in pugno. Essa si era abbandonata alle circostanze, anziché reagire con un atto di volontà. Ma i problemi messi nel cassetto, messi cioè da una parte per non affrontarli, sono come piccoli i piccoli di una tigre. Quando diventano grandi, sbranano. Troppi figli di Dio vivono in simili situazioni. Aspettare con fiducia in Dio che mutino situazioni compromettenti nel lavoro, negli affetti, nella fede, in famiglia, come nella Chiesa, può essere un atto di fede. Ma alcune volte occorre, con coraggio e determinazione, prendere una posizione di rifiuto. Dobbiamo collaborare con ferma decisione con la volontà di Dio, perché solo così la verità si incorpora nella nostra vita. Gesù insegnò nell'Evangelo di Matteo al capitolo 12 quanto segue. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. E quando ci arriva, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Questa parabola, anche se non è rivolta a chi appartiene a Cristo, è pur sempre significativa, contenendo un principio da non dimenticare. Lo spirito immondo che esce da un uomo vi ritorna con altri 7 spiriti se trova la casa vuota. La passività è il terreno su cui si muove Satana e i suoi emissari, mentre Dio vuole una collaborazione attiva. Diffidiamo quindi di ogni movimento religioso o esperienza di fede che richieda l'annullamento della propria personalità e una obbedienza cieca. Il misticismo è sotto il controllo di Satana. Gli entusiasmi e l'ebbrezza mistica sono pratiche pagane e orientali, animiste, ricercate anche dal movimento dei sufisti dell'Islam, dalla religione buddista, dalla New Age. Essi non hanno nulla a che fare con l'opera e il compito dello Spirito Santo. Il cristiano deve rifiutare ed evitare di instaurare qualsiasi tipo di rapporto con il mondo delle tenebre, perché la mente dell'uomo, quanto il suo cuore, sono nel mirino di Satana. L'asservimento a Satana avviene, oltre che mediante pratiche idolatre e magiche, anche e soprattutto mediante l'asservimento della mente. Quando Gesù disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il prossimo tuo come te stesso, intendeva affermare che i figli di Dio devono mettere tutto il loro impegno, tutta la loro forza, tutta la loro intelligenza al suo servizio, coscientemente e intelligentemente. Sottomettendoci dunque a Dio e allo Spirito Santo con intelligenza, altrimenti l'uomo che smarrisse la via del buon senso, come leggiamo nel libro dei Proverbi, riposerà nell'assemblea dei defunti. Quando i cristiani sono riuniti come chiesa, esprimano la loro fede guidati dallo Spirito Santo, ma anche con la loro intelligenza. E allora, come abbiamo letto, se entra qualche non credente o qualche estraneo, egli è convinto da tutti e scrutato da tutti, i segreti del suo cuore sono svelati e così, gettandosi giù con la faccia a terra, adorerà Dio, proclamando che Dio è veramente fra loro. Se non sei un figlio di Dio, queste riflessioni devono metterti in guardia. Se in caso di pericolo, di una disgrazia, di una malattia, o per qualsiasi altra ragione cerchi la protezione e la guarigione negli umoleti, portafortuna, ciondoli, immagini, corna o cerchi consiglio presso i cosiddetti veggenti, medium e maghi, sappi che abbandoni corpo, anima e spirito alla volontà di Satana. La mamma che porta il figlio da un mago, la signorina che si fa fare le carte, il contadino che fa scongiurare il bestiame dalla malattia, l'uomo politico che si fa fare l'oroscopo, il professionista che viaggia con l'amuleto nella tasca, la ragazza che cerca di conoscere il suo avvenire o il suo futuro sposo per mezzo di pratiche indovine nella notte di San Giovanni, tutti questi stabiliscono in realtà un contatto con Satana e si sottomettono alla sua volontà. Essi si legano con catene a colui del quale Gesù disse che è il bugiardo, il principe delle tenebre e l'omicida da principio. Se ti trovi in una di queste situazioni, rinuncia energicamente a tutte le pratiche di magia e di superstizione e nel nome di Gesù distruggi ogni oggetto, libro, immagine, ogni traccia di queste pratiche. Ogni bottiglia d'acqua benedetta, ogni corno, nella casa e sul corpo, sui veicoli, così come ogni altra medaglia di protezione o di portafortuna, ogni amuleto e ogni altro oggetto di superstizione, sia distrutto. Senza rincrescimento, getta e brucia tutto. Questo sarà la dimostrazione che veramente desideri appartenere a Gesù Cristo e liberarti dal potere di Satana. Forse non riterrai opportuno prendere decisioni così drastiche, ma è l'unico modo per dimostrare a te stesso e agli altri e a Gesù Cristo che tu sei deciso a seguire, senza riserve, la volontà di Dio espressa nella sua parola. L'apostolo Paolo scrisse la seguente affermazione lapidaria: tuttavia, il saldo fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi, e si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Amen. Ritirarsi dall'iniquità come atto di volontà, fuggire il male con fermo proponimento, questa è la volontà di Dio. Confessa i peccati a Dio, invoca il nome di Gesù che ti liberi da ogni catena del male. Devi comprendere che Satana non cede nulla spontaneamente del suo potere fino a che non glielo si sottragga a forza. Chiedi perdono a Dio e nega pubblicamente a Satana l'esercizio di qualsiasi diritto su di te. L'azione e la potenza di Satana crolleranno nei tuoi confronti, perché Gesù è stato manifestato per distruggere le opere di Satana. Quando ti arrendi volontariamente a Gesù Cristo, togli a Satana il diritto e potere sulla tua vita. Caro ascoltatore, hai lo Spirito Santo o sei guidato da uno spirito maligno? Non puoi sottrarti a questa domanda. Se ti trovi nell'incertezza, mettiti ora in ginocchio. Confessa a Gesù che hai vissuto una vita senza la sua guida e autorità. Chiedi perdono. Accetta che il suo sacrificio sia sufficiente per perdonare tutti i tuoi peccati. Credi al suo perdono e che ti abbia reso giusto agli occhi di Dio. Di conseguenza, ringrazialo perché Gesù è diventato il tuo Signore e Salvatore. Inizia a confessare la tua fede personale in Cristo. Radunati con chi ha fatto la tua stessa esperienza. Servi Gesù Cristo con tutta la tua mente e forza. Vivi nella gioia di Dio. Ubbidisci con una scelta intelligente alla volontà di Dio e lo spirito maligno fuggirà da te come uno scarafaggio fugge alla luce. Che l'Eterno ti dia sapienza in ogni cosa. Amen.